Capitolo 158. La fondazione di Troia. Una delle storie che si narrano a proposito della fondazione di Troia è che, in tempo di carestia, un terzo del popolo di Creta, guidato dal principe Scamandro, partì dall'isola per fondare una colonia. Raggiunta la Frigia, alzarono le tende presso il mare, non lontano dalla città di Amassito, ai piedi di un alto monte che chiamarono Ida in onore della dimora cretese di Zeus. Ora Apollo li aveva consigliati di fermarsi là dove fossero stati attaccati da nemici sorti dalla terra col favor delle tenebre. E quella stessa notte un'orda di famelici topi di campo invasero l'accampamento e rosero le corde degli archi, le cinture di cuoio e tutte le altre parti commestibili delle armature cretesi. Scamandro, memore dell'oracolo, diede l'ordine di interrompere il viaggio, dedicò un tempio ad Apollo Sminzio, attorno al quale ben presto crebbe la città di Sminteo, e sposò la ninfa Idea, che gli diede un figlio, Teucro. Con l'aiuto di Apollo, i cretesi sconfissero loro nuovi nemici, i Bebrici, ma nel corso della battaglia Scamandro cadde nel fiume Xanto, che da allora prese il nome di Scamandro. Gli successe Teucro, da cui i coloni presero il nome di Teucri. Tuttavia, altri dicono che Teucro stesso guidò gli emigranti cretesi e fu accolto in Frigia da Dardano, che gli diede in sposa sua figlia e chiamò Teucri i propri sudditi. Gli ateniesi narrano una storia del tutto diversa. Negano che i Teucri giungessero da Creta e sostengono che un certo Teucro, nato nel demo di Troe, emigrò da Atena nella Frigia e che Dardano, figlio di Zeus e della Pleiade Elettra, nativo di Feneo in Arcadia, fu accolto in Frigia da codesto Teucro e non viceversa. Come prova di questa ipotesi si ricorda che gli Erittoni appaiono nella genealogia sia della Real Casa Ateniese sia di quella Teucra. Dardano, continuano gli ateniesi, sposò Crise, la figlia di Pallante, che gli generò due figli, Ideo e Dimante. Costoro regnarono assieme per un certo periodo sul regno arcadico fondato da Atlante, ma furono poi separati dalle calamità del diluvio di Deucalione. Dimante rimase in Arcadia, mentre Ideo si recò col padre suo Dardano a Samotracia, che colonizzarono, e l'isola fu in seguito chiamata Dardania. Crise aveva portato in dote a Dardano le sacre immagini delle grandi divinità di cui era sacerdotessa e Dardano ne introdusse il culto a Samotracia, pur serbando segreti i loro veri nomi. Fondò anche un collegio di sacerdoti sali perché celebrassero i riti necessari. Tali riti erano identici a quelli celebrati in Creta dai Cureti. Il dolore per la morte del fratello Iasione indusse Dardano a recarsi nella Troade. Vi giunse solo su una zattera che aveva fabbricata gonfiando una pelle e zavorrandola con quattro pietre. Teucro lo accolse come ospite e alla condizione che Dardano lo aiutasse a sottomettere alcune tribù vicine, gli offrì una parte del suo regno e la principessa Batea in sposa. Alcuni dicono che Batea era zia di Teucro, altri che era sua figlia. Dardano propose di fondare una città sulla collina di Ate, che sorge nella pianura dove ora si trova Troia o Ilio. Ma quando un oracolo di Apollo Frigio lo avvertì che in tal caso le calamità si sarebbero abbattute senza fine sui suoi abitanti, scelse una località sulle pendici del monte Ida e chiamò quella città Dardania. Alla morte di Teucro, Dardano gli succedette dando il suo nome all'intero regno ed estese il suo potere su molte nazioni asiatiche. Mandò anche coloni in Tracia e più oltre. Frattanto il figlio minore di Dardano, Ideo, l'aveva seguito nella Troade portando con sé le sacre immagini, il che permise a Dardano di istruire la sua gente nei misteri di Samotracia. Un oracolo gli assicurò che la città che egli stava per fondare sarebbe stata invincibile finché la dote di sua moglie fosse rimasta sotto la protezione di Atena. La tomba di Dardano ancora si vede in quella parte di Troia che fu chiamata Dardania prima che si fondesse con i villaggi di Ilio e di Troo, formando un'unica città. Ideo si stabilì sul monte Ida che, secondo alcuni, prese da lui quel nome e colà istituì i misteri della Frigia, gran madre degli dei. Secondo la tradizione latina, il padre di Iasione era il principe di Tirrenia, Corito, e il suo gemello Dardano era figlio di Zeus e della moglie di Corito, Elettra. Ambedue emigrarono dall'Etruria dopo aver diviso tra loro le sacre immagini. Iasione andò a Samotracia e Dardano nella Troade. Mentre combatteva contro i Bebrici che cercavano di ributtare in mare i Tirreni, Dardano perdette l'elmo e per recuperarlo spinse all'attacco le sue truppe che stavano per battere in ritirata. La vittoria gli arrise e fondò allora una città chiamata Corito sul campo di battaglia, sia in memoria del suo elmo, Coris, sia in memoria di suo padre. Ideo aveva due fratelli maggiori, Eritonio e Ilo o Zacinto, e una figlia, Idea, che divenne la seconda moglie di Fineo. Quando Eritonio succedette a Dardano sul trono, sposò Astioca, la figlia di Simoento, che gli generò Troo. Eritonio, indicato anche come re di Creta, era il più ricco tra gli uomini, proprietario delle 3.000 giumente di cui Borea si innamorò. Troo succedette al padre Eritonio, e non soltanto Troia, ma l'intera Troade prese il suo nome. Da sua moglie Calliroe, figlia dello Scamandro, egli ebbe Cleopatra la giovane, Ilo il giovane, Assaraco e Ganimede. Frattanto Ilo, fratello di Eritonio, si era recato in Frigia dove, partecipando ai giochi che erano già iniziati, vinse la gara di lotta ed ebbe in premio 50 giovani e 50 fanciulle. Il re Frigio, di cui non si ricorda il nome, gli diede anche una vacca pezzata e gli consigliò di fondare una città là dove la vacca si fosse sdraiata. Ilo seguì l'animale, lo vide sdraiarsi sulla collina di Ate e colà fondò la città di Ilio. Memore però del consiglio dato da un oracolo a suo padre Dardano, non la fortificò. Altri tuttavia dicono che Ilo seguì una delle sue vacche misie e che le istruzioni gli furono date da Apollo. Ma altri ancora sostengono che Ilio fu fondata da emigrati locresi e che essi diedero il nome della loro montagna Friconide al monte troiano di Cuma. Tracciato il solco che segnava i confini della città, Ilo pregò Zeus onnipotente perché gli desse un segno e il mattino seguente trovò dinanzi alla sua tenda un oggetto di legno per metà sepolto nella terra e coperto di erbacce. Codesto oggetto era il palladio, un simulacro senza gambe alto 3 cubiti fatto da Atena in memoria della sua morta compagna libica di giochi Pallade. Pallade, Atena infatti aggiunse al proprio questo nome, reggeva una lancia nella mano destra e una rocca e un fuso nella sinistra. Il suo petto era coperto dall'egida. Atena pose dapprima il simulacro sull'Olimpo accanto al trono di Zeus, dove gli furono tributati grandi onori. Ma quando la bisnonna di Ilo, la Pleiade Elettra, fu violata da Zeus e insozzò il simulacro col suo tocco, Atena furibonda la scaramentò, lei e il simulacro, sulla terra. Apollo Sminteo consigliò dunque a Ilo: «Abbi cura della dea che cadde dal cielo e avrai così cura della tua città, poiché la forza e il potere accompagnano la dea dovunque essa vada». Obbedendo all'oracolo, Ilo innalzò sulla cittadella un tempio che ospitasse il simulacro. Alcuni dicono che il tempio era già in costruzione quando l'immagine discese dal cielo come dono della dea. Cadde infatti attraverso un lembo del tetto che non era stato completato e fu trovata ritta laddove era esattamente il suo posto. Altri dicono che Elettra donò il palladio a Dardano, il figlio che essa aveva avuto da Zeus e che dopo la morte di Dardano il simulacro fu portato da Dardania a Ilio. Altri dicono che cadde dal cielo ad Atene e che l'ateniese Teucro lo portò nella Troade. Altri ancora credono che vi fossero due palladi, uno ateniese e uno troiano, quest'ultimo ricavato dalle ossa di Pelope, così come il simulacro di Zeus a Olimpia fu ricavato da Avorio indiano. Oppure che vi furono molti palladi, tutti caduti dal cielo, comprese le immagini samotrace portate nella Troade da Ideo. Il Collegio delle Vestali a Roma custodisce ora quello che è ritenuto l'autentico palladio. Nessuno può guardarlo impunemente. Un giorno, quando il simulacro si trovava ancora nelle mani dei troiani, Ilo si precipitò tra le fiamme del tempio per salvarlo e rimase accecato. In seguito, tuttavia, riuscì a placare Atena e recuperò la vista. Euridice, figlia di Adrasto, generò a Ilo Laomedonte e Temista, la quale sposò il frigio Capi e, come alcuni dicono, divenne la madre di Anchise. da Strimo, la figlia dello Scamandro, e di Leucippa, o Zeusippe, o Tosa, Laomedonte, ebbe 5 figli, e cioè Titono, Lampo, Clizio, Icetaone e Podarce, e 3 figlie, Esione, Cilla e Astioca. Laomedonte ebbe anche 2 gemelli bastardi dalla ninfa e pastora Caliba. Fu Laomedonte che decise di erigere le famose mura di Troia ed ebbe tanta fortuna da poter godere dell'aiuto di Apollo e di Posidone. Zeus, infatti, irritato con loro perché avevano osato ribellarsi alla sua volontà, li costrinse a servire Laomedonte come manovali. Posidone si incaricò di costruire le mura, mentre Apollo suonava la lira e pascolava le greggi di Laomedonte. Eaco, il lelego, diede una mano a Posidone, ma Laomedonte poi truffò gli dei sulla paga e si guadagnò il loro rancore. Ecco perché egli e i suoi figli, salvo Podarce, poi chiamato Priamo, perirono quando Eracle saccheggiò Troia. Priamo, cui Eracle generosamente affidò il trono di Troia, suppose che le calamità battutesi su Troia fossero dovute alla sua infausta ubicazione anziché all'ira degli dei. Mandò dunque uno dei suoi nipoti a Delfi per chiedere alla Pizia se una maledizione gravava ancora sulla collina di Ate. Ma il sacerdote di Apollo, Panto, figlio di Otriade, era così avvenente che il nipote di Priamo, scordatosi del suo incarico, si innamorò di lui e lo portò con sé a Troia. Benché irritato, Priamo non ebbe cuore di rimproverare il nipote. Per rimediare all'offesa fatta all'oracolo di Delfi, elesse Panto sacerdote nel tempio di Apollo. E poiché non osava consultare di nuovo la Pizia, ricostruì Troia sulle antiche fondamenta. La prima moglie di Priamo fu Arisbe, figlia di Merope, il veggente. Quando essa gli ebbe generato Esaco, Priamo la maritò a Irtaco, che la rese madre degli Irtacidi, Asio e Niso. Codesto Esaco, che dal nonno Merope imparò l'arte di interpretare i sogni, è famoso per aver amato appassionatamente Asterope, figlia del fiume Cebreno. Quando essa morì, Esaco cercò più volte di uccidersi gettandosi in mare da una rupe, e infine gli dei, impietositi, lo tramutarono in un uccello pescatore, cosicché egli potesse abbandonarsi alla sua mania ossessiva senza offendere il decoro. Ecabe, la seconda moglie di Priamo, che i latini chiamano Ecuba, era figlia di Dimante e della ninfa Eunoe, oppure, secondo altri, di Cissio e di Teleclea, o del fiume Sangario e di Metopa, o di Glaucippa, figlia di Xanto. Essa generò a Priamo 19 dei suoi 50 figli, gli altri essendo figli di concubine. Tutti e 50 occupavano camere da letto adiacenti in pietra polita. Le 12 figlie di Priamo dormivano con i loro mariti in un'altra ala del medesimo cortile. Il figlio maggiore di Ecabe era Ettore, che alcuni dicono figlio di Apollo. Il secondo Paride, poi Creusa, Laodice e Polissena, Deifobo, Eleno, Cassandra, Pammone, Polite, Antifo, Ipponoo e Polidoro. Ma Polidoro fu certamente generato in lei da Apollo. Tra i figli minori di Ecabe vi erano i gemelli Cassandra ed Eleno. Il giorno genetriaco del padre loro, durante la festa che si celebrava nel santuario di Apollo Timbreo, i fanciulli stanchi di giocare si addormentarono in un canto, mentre gli incauti genitori, le menti annebbiate dal vino, rientrarono a casa senza di loro. Quando Ecabe ritornò al tempio, vide che i sacri serpenti stavano leccando le orecchie dei bambini e urlò, terrorizzata. I serpenti subito sparirono, strisciando in un cespuglio di alloro, ma da quel momento Cassandra ed Eleno ebbero il dono della profezia. Secondo un'altra versione, Cassandra un giorno si addormentò nel tempio e Apollo, apparsole all'improvviso, promise di istruirla nell'arte della profezia se avesse acconsentito a giacersi con lui. Cassandra, dopo aver accettato il suo dono, rifiutò di tener fede ai patti. Apollo allora le chiese un solo bacio e, mentre Cassandra lo baciava, le sputò nella bocca per far sì che nessuno credesse mai a ciò che essa avrebbe profetizzato. Quando, dopo alcuni anni di prudente e saggio governo, Priamo ebbe ridonato a Troia la ricchezza e la potenza di un tempo, convocò il consiglio per discutere il caso di sua sorella Esione, che Telamone, Leacide, aveva portato con sé in Grecia. Benché Priamo fosse incline a ricorrere alla forza, il consiglio volle che prima si tentasse di risolvere la questione pacificamente. Il cognato di Priamo, Antenore, e suo cugino Anchise andarono dunque in Grecia e presentarono le proposte dei troiani ai greci riuniti nel palazzo di Telamone. Ma fra risate di scherno fu loro risposto che tornassero pure a casa e badassero agli affari propri. Questo incidente fu la causa principale della guerra di Troia, di cui già Cassandra prediceva la disastrosa fine. Per evitare uno scandalo, Priamo fece rinchiudere la principessa in una torre piramidale della cittadella. L'ancella che si occupava di lei aveva l'ordine di riferire al re tutte le sue predizioni. La città di Troia, centro degli scambi commerciali tra Oriente e Occidente nell'età del bronzo, grazie appunto alla sua posizione ideale in una vasta pianura irrigua all'ingresso dell'Elesponto, era esposta però ad attacchi da tutte le parti. Sia i Greci, sia i Cretesi, sia i Frigi si vantavano di aver fondato la città e le loro pretese non erano inconciliabili, poiché anche nei tempi classici Troia fu distrutta e ricostruita parecchie volte. Vi furono in tutto 10 Troie, e la settima era la Troia omerica, che pare fosse abitata da una federazione di 3 tribù, troiani, ili e dardani, secondo un sistema in uso nell'età del bronzo. L'Apollo Sminteo si ricollega a Creta, poiché Smintos era la parola cretese che indicava il sorcio, animale sacro non soltanto a Cnosso, ma anche presso i Filistei e nella Focide. Erittonio, il fecondatore vento del nord, era egualmente venerato sia dai Pelasgi di Atene sia dai Traci. Ma che gli ateniesi pretendessero di aver fondato Troia è cosa da non prendere in considerazione, come ogni forma di propaganda politica. I topi bianchi che si allevavano nei templi di Apollo servivano a combattere sia la pestilenza sia le improvvise invasioni di topi citate da Eliano e da Aristotele. Può darsi che Dardano fosse un Tirrenio della Lidia o di Samotracia, ma Servio commette un errore dicendo che egli venne dall'Etruria, dove i Tirreni si stabilirono molto tempo dopo la guerra di Troia. Zacinto, parola cretese che figura nella genealogia dei re di Troia, era il nome di un'isola compresa nei possedimenti di Odisseo, e ciò lascia supporre che Odisseo vantasse diritti ereditari al trono di Troia. Il palladio che le vergini vestali custodivano in Roma come talismano della città ebbe una grande importanza per i mitografi italiani. Essi sostenevano che il palladio era stato salvato da Enea durante l'incendio di Troia e portato in Italia. Forse era stato modellato con avorio di pesce porco. Palladio indicava una pietra o altro oggetto del culto attorno al quale danzavano le ragazze di una particolare tribù, come a Tespia, oppure giovanetti, poiché Pallas era termine usato indiscriminatamente per i due sessi. Il Collegio Romano dei Sali era una comunità di sacerdoti danzatori. Quando tali oggetti di culto furono giudicati propiziatori di buona fortuna per la tribù e gelosamente custoditi perché nessuno li rubasse o li mutilasse, Palladia venne interpretato come palta, ossia cose cadute dal cielo. I palta dovevano essere sempre esposti alla volta celeste. Ecco perché la sacra pietra di Termine a Roma stava sotto un'apertura del tetto nel Tempio di Giove, e un'identica apertura era stata praticata nel Tempio di Zeus a Troia. Il culto delle meteoriti si estese ben presto agli antichi monoliti, di cui era stato scordato il carattere funerario. E da un monolite a un simulacro di pietra, e da un simulacro di pietra a un simulacro di avorio o di legno, il passo è breve. Ma il fatto che uno scudo cada dal cielo, l'ancile di Marte è l'esempio più famoso, richiede ulteriori spiegazioni. Dapprima le poche meteoriti, come uniche palta genuine, erano ritenute causa dei fulmini che fendevano gli alberi delle foreste. In seguito le asce neolitiche, come quelle trovate recentemente nel santuario miceneo di Asine, e i primitivi pestelli dell'età del bronzo, come il pestello di Cibele a Efeso, furono scambiati per folgori, ma anche lo scudo era ritenuto uno strumento di tuono. gli stregoni preellenici invocavano la pioggia facendo roteare rombi per imitare il suono del vento che si alza, e per imitare il tuono battevano con due bastoni, simili a quelli dei sacerdoti sali nel bassorilievo di Anagni, su grandi scudi di pelle di bue rigidamente tesa. L'unico modo per far risuonare ininterrottamente i rombi è di farli girare di continuo in cerchio a forma di otto, come fanno i ragazzini con i mulini a vento in miniatura, e poiché le torce usate per imitare la luce dei lampi venivano agitate in tondo, pare, secondo la stessa figura, lo scudo propiziatore di pioggia era tagliato in modo da formare un otto e la doppia bacchetta lo percorreva continuamente su ambedue le facce. Ecco perché le raffigurazioni cretesi giunte sino a noi ci mostrano lo spirito del tuono che scende su uno scudo a forma di otto, e per la stessa ragione gli scudi erano a volte venerati come palta. Una tavoletta dipinta dell'Acropoli di Micene dimostra, come indica il colore della carne, che lo spirito del tuono era una dea anziché un dio. Su un anello d'oro rinvenuto nei pressi, il sesso della divinità dello scudo che discende dal cielo non è indicato. Cassandra e i serpenti ricordano il mito di Melampo, e Apollo che le sputa in bocca il mito di Glauco. La sua prigione fu probabilmente una tomba a tumulo sulla quale Cassandra mormorava profezie in nome dell'eroe che vi era sepolto. Esaco, il nome del profetico figlio di Priamo, indica quel ramo di mirto che passava da una mano all'altra durante i banchetti greci come un invito al canto e alla composizione poetica. Poiché il mirto era l'albero della morte, tali poemi in origine furono possibilmente profezie pronunciate nel corso della festa di un eroe. Gli uccelli pescatori erano sacri ad Atena in Attica e associati con la morte per annegamento del farmacos regale. L'episodio di Scamandro che si getta nel fiume Xanto ricorda probabilmente l'analoga usanza troiana di far annegare il vecchio re. Si credeva che la sua ombra fecondasse le fanciulle che scendevano al fiume a bagnarsi. Tantalo, che a quanto pare subì la stessa sorte, sposò una figlia di Xanto. Priamo ebbe 50 figli, 19 dei quali legittimi. Ciò lascia supporre che a Troia la durata del regno del re sacro si misurasse col ciclo metonico dei 19 anni e non col ciclo delle 100 lunazioni suddivise tra re e successore, come a Creta e in Arcadia. Le sue 12 figlie erano forse custodi dei mesi. Il fatto che Eaco contribuisse alla costruzione delle mura di Troia è di grande importanza. Apollo aveva profetizzato che i suoi discendenti sarebbero stati presenti alla conquista della città, sia alla prima sia alla quarta generazione, e che soltanto nella parte delle mura costruita da Eaco si poteva aprire una breccia. Andromaca ricordò a Ettore che questo punto debole si trovava lungo il lato occidentale delle mura, presso l'albero di Fico, dove per ben 3 volte i valorosi guerrieri guidati dai 2 Aiaci avevano tentato di fare irruzione, sia che un veggente avesse rivelato il segreto, sia che il loro stesso spirito così li consigliasse. Gli scavi di Dorpfeld, a Troia, dimostrarono che le mura, inspiegabilmente, erano davvero più deboli in quel punto. Ma gli Aiaci o Eacidi non avevano bisogno dei consigli di un veggente per venire a conoscenza dell'antico segreto, se è vero, come suppone Polibio, che Eaco fosse giunto da Locri o Punzia, la città di Aiace minore. La Locride, che pare abbia fornito l'elemento ilio nella Troia omerica ed ebbe il privilegio di nominare le sacerdotesse troiane, era un distretto pre-ellenico dove vigevano istituzioni matriarcali e la successione matrilineare. Un'altra tribù di Lelegi, forse di origine locrese, viveva a Pedaso nella Troade. Una delle loro principesse, Laotoe, venne a Troia ed ebbe un figlio da Priamo. Pare che la rapidità con cui le sacerdotesse misero in salvo il palladio a Locri facilitasse la caduta della città in mano ai greci. Poiché vi era un Teucro figlio di Scamandro e un altro Teucro nipote di Eaco e figlio della sorella di Priamo, Esione, l'elemento Teucro a Troia deve essere identificato con quello Lelego o Eacide o Ilio. Gli altri due elementi erano il Lidio Dardanico o Tirrenio e il Troiano o Frigio.